got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto. Allora mettiamoci ai fornelli. Benvenuti in questo spazio di Radio 24 dedicato alla cucina contro i pregiudizi, a tavola come nella vita. Per farlo, come avete sentito, prendiamo spunto sempre da un film degli anni 60, un film antirazzista che mostrava però quanti pregiudizi possono ancora esserci anche in una coppia progressista che si trova a tavola una figlia che vuole sposare un ragazzo di colore. Insomma, una situazione molto lontana dalla realtà di oggi, ma anche nella realtà di oggi dobbiamo a volte fare i conti contro il pregiudizio. Ad esempio, uno di questi è che i lavoratori di origine straniera in Italia siano sempre dipendenti degli italiani, invece molti sono anche imprenditori di se stessi e anche hanno dei dipendenti nella loro impresa. Di questo parliamo oggi, in cui ve lo annuncio già, i nostri piatti saranno molto speziati perché abbiamo due ospiti orientali. Si tratta di due imprenditori di origine straniera, vincitori del premio Money Gram Award, che ogni anno premia appunto l'imprenditoria straniera in Italia. Nato per promuovere l'eccellenza delle oltre 400.000 aziende gestite da cittadini stranieri ormai italiani, dedicato a quanti hanno mostrato coraggio, capacità di visione e leadership nel fare impresa nel nostro paese. C'è chi importa prodotti dalla madrepatria, chi fornisce manodopera qualificata alle aziende, chi gestisce un centro estetico, chi usa la cucina appunto come ponte tra culture, chi ha lanciato un franchising di ristoranti, chi invece si dedica ad anziani e immigrati. Le strade verso il successo sono tante, partono dai quattro angoli del mondo. Vi ricordo che il bando per partecipare all'edizione 2013 scade proprio tra qualche giorno, esattamente il 15 di maggio. Allora diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è Muhammad Aymal Shahid. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a lei. Ho pronunciato correttamente il suo nome? Sì, perfetto. Allora, lei è il vincitore della categoria Giovane Imprenditore del 2012, quindi dell'anno scorso. Complimenti innanzitutto. Grazie. E quale è la sua impresa? Per cosa ha vinto? La mia impresa si chiama Impresa Service, è una impresa che è nata nel 2006 e che fornisce vari servizi al bisogno delle imprese italiane, diciamo. Facciamo servizi di facchinaggio, pulizia, carichi scarichi, sistemazione magazzini. Quindi fornisce manodopera qualificata alle aziende 24 ore su 24, quindi da lavori idraulici a lavori agricoli, al facchinaggio, al volantinaggio. E quanti addetti ha? Attualmente siamo in 30, mm-hmm. 30 soci dipendenti. Quindi è una cooperativa, no? Sì, una cooperativa di servizi. Sì. E il fatturato di quant'è? Il fatturato circa più di 500.000. Bene, quindi siete cresciuti velocemente, no? Perché lei, questa azienda è abbastanza giovane, tra l'altro è di Porto Recanati, quindi stiamo parlando della provincia di Macerata. Sì, provincia di Macerata, la sede è proprio provincia di Macerata, io vivo a Porto Recanati. Uh-huh. Ed è nato però da un'altra parte del mondo, da dove arriva? Vengo dal Pakistan, arrivato in Italia nel 2000. Molto giovane. sì. Poi dopo si è cominciata la strada molto dura e difficile, però grazie a Dio ce l'abbiamo fatta e stiamo facendo ancora tuttora, diciamo. E questo premio sicuramente così gratifica anche un po' il suo sforzo. Torniamo a parlare del suo lavoro, di come è arrivato in Italia, di come la sua vita si è trasformata tra poco, ma prima volevo chiederle che cosa ci mettiamo a cucinare a questo punto, perché come sempre nella nostra trasmissione lo spunto è quello culinario. Allora io le ho chiesto una ricetta che in qualche modo le è cara. E qual è la ricetta? A me mi piace la pizza. La pizza è un prodotto gastronomico che mi piace molto. Quindi una ricetta italiana. Sì, una ricetta italiana che viene fatta a base di un impasto di acqua, farina di frumento e lievito e olio di oliva. Bene, tra l'altro è un piatto che insomma ormai è internazionale, ovviamente italiano, però ormai internazionale, nelle pizzerie sono moltissimi ormai, come anche lei avrà visto, i pizzaioli di origine straniera. Questo è curioso, lei la sa fare a casa la pizza? Sì, sì, come no, senz'altro ogni tanto lo facciamo anche a casa. In effetti c'è questa tendenza ormai ad assumere molti pizzaioli stranieri, indiani, pakistani, come mai? Comunque se impegnano, se imparano, anche una cosa diventata, o come oggi, una cosa internazionale che viene mangiata in quasi tutto il mondo e mangiata e piaciuta. Certo, e quindi la pizza, benissimo, un piatto italiano, perché ormai lei immagino si senta in parte almeno italiano. Dopo molti anni. Si sente italiano o pakistano? Dopo molti anni mi sento più italiano che pakistano. Immagino, è sposato in Italia con una donna italiana? No, io sono sposato in Italia, sposato in Pakistan, con una donna pakistana. Ho capito, e torna spesso nel suo paese d'origine? Sì, circa ogni anno, ormai con la famiglia vivo qua in Italia, ho tre figli, diciamo che viviamo qua, però ogni anno famo un viaggio giù in Pakistan. Con Shahid, un imprenditore di origine pakistana arrivato in Italia a soli 21 anni, che ha sentito da subito l'esigenza di creare un'impresa tutta sua nonostante le difficoltà incontrate nei primi anni. Questa canzone At Home è per ricordare il suo paese, diceva che ci torna ma non così di frequente. Avrà nostalgia anche per i gusti, gli odori, le spezie del suo paese, immagino. Sì, sicuramente. Però a casa cucina più volentieri, mi pare di capire, piatti italiani. Sì, infatti la pizza mi piace molto, a casa spesso faccio anche la pizza. Senta, questa azienda, io ho dei dati di Union Camere che parlano del fatto che gli stranieri in Italia hanno un forte spirito imprenditoriale. Le imprese guidate da cittadini stranieri sono arrivate a quasi 500.000 rispetto al 2012. Quest'anno il numero è cresciuto di 24.000 unità, ovvero il 5,8% in più, arrivando a costituire il 7,8% del totale. Il dato è significativo, scrive Union Camere, anche perché nello stesso periodo le imprese italiane attivate da cittadini italiani invece non hanno superato le 19.000 unità. Insomma, l'imprenditoria di origine straniera è molto vivace e è anche per questo che ne parliamo oggi. Immagino però che anche voi subiate la crisi. Ci sono delle difficoltà nel reperire, ad esempio, lavoro in questo periodo? Ci sono molte difficoltà, anche come sentono tutti gli altri, però su questo momento non dobbiamo essere fermi, non dobbiamo aspettare che qualcuno che credi passerà da sola, quindi dobbiamo lavorare ancora molto di più, dobbiamo impegnare molto di più, dobbiamo cercare le nuove risorse e nuovi mercati, diciamo comunque il mondo sta cambiando, dobbiamo cambiare pure noi altri, dobbiamo mettere più forze, più volontà e più motivazione, diciamo. E questa secondo lei manca nell'imprenditoria o comunque nei lavoratori italiani? Secondo me un po' manca le politiche statali, un po' anche comunque qualcuno comunque deve guidare il paese come Stato che guida il paese, anche il movimento di imprenditori, diciamo, sia italiani sia stranieri, che a certo punto come basa il mondo, qualcuno anche dobbiamo essere noi stessi insieme collegati, parlati, diciamo. E non siete abbastanza coesi in questo? Sì, sì, su questo qui ci manca, diciamo, io l'ho parlato, diciamo, dove l'ho avuto la possibilità, comunque un collegamento, un centro, un posto dove ci possiamo comunicarle, dove ci possiamo parlare, ognuno porta sua idea, comunque quando stanno tante persone insieme, tante idee insieme, comunque esce fuori una cosa nuova che sempre quello lì è più prestigiosa secondo me. Impresa Service, la sua cooperativa, dicevamo prima, fornisce ad altre aziende della manodopera per dei lavori così anche pesanti di facchinaggio, lavori idraulici, agricoli. È un settore nel quale secondo lei gli italiani, così di solito si dice, non hanno voglia di fare questi tipi di lavori e magari gli stranieri un po' di più? Io devo essere sincero, io questa differenza ultimamente lo vedo pochissimo, diciamo, da quando è che siamo entrati in crisi. Cioè anche gli italiani si adattano bene? Sì, ormai sì. Vengono da lei anche dei giovani italiani a chiedere lavoro? Sì, qualche volta capita, sì, questo è vero, ultimamente sì, capita di più rispetto a, diciamo, qualche anno prima. Quindi i giovani italiani si adattano in effetti a trovare lavoro, soprattutto in questo momento di crisi. Sì, sì, infatti. Grazie a Muhammad Aymal Shahid e alla sua impresa Service. Adesso diamo la ricetta. Pizza. Acqua circa 600 ml. Olio extravergine di oliva 6 cucchiai. Zucchero 2 cucchiaini rasi. Sale fino a 20 grammi. Lievito di birra 25 grammi. Farina 0 1 kg. Passata di pomodoro, mozzarella, basilico o origano. Per preparare la pasta della pizza, disponete la farina a fontana su una spianatoia o in una capiente bacinella e formate un buco al centro. Prendete una ciotolina di vetro, versateci un bicchiere d'acqua tiepida, sbriciolatevi dentro un cubetto di lievito di birra e lo zucchero. Mescolate fino a far sciogliere bene il tutto e inserite al centro della farina il composto di acqua e lievito. A parte, sciogliete 20 g di sale in un altro bicchiere d'acqua tiepida, aggiungete l'olio e inseriteli nella farina. Impastate fino a raggiungere la consistenza desiderata, che deve essere morbida ed elastica. Formate una palla che andrete ad adagiare in una capiente ciotola. Coprite la ciotola con un canovaccio e riponetela in un luogo tiepido e lontano da correnti d'aria. Attendete che l'impasto abbia raddoppiato il proprio volume e poi procedete alla stesura della pasta per la pizza. Una volta lievitato, stendete l'impasto, mettete la passata di pomodoro, la mozzarella a pezzi, un filo d'olio e a piacere origano o basilico. Infornate per 20 o 25 minuti ad alte temperature. We'll be right back. Bentornati, buon pomeriggio ancora da Valentina Furlanetto. Adesso andiamo in India con un altro ospite al quale do il benvenuto, Thomas Mailador. Benvenuto a Indovina chi viene a cena. Grazie, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buon pomeriggio. Oggi parliamo con lei del suo lavoro di imprenditore in Italia, perché anche lei è vincitore di questo prestigioso premio per imprenditori stranieri in Italia, vincitore 2011 nella categoria responsabilità sociale con la sua azienda. Ma il suo piatto di oggi che cuciniamo per metterci subito ai fornelli, che cos'è? È il più classico della cucina indiana, il pollo al curry, che poi viene mangiato con il riso. Andiamo sul classico, ma su un piatto sicuramente interessante. È un piatto che lei, secondo me, conosce bene. Adesso spieghiamo perché. Perché lei è uno dei pionieri della cucina indiana nella capitale d'Italia, a Roma. E così, quando è arrivato, che cosa è accaduto e cosa ha fondato? Mi definirei proprio pioniere, almeno per Roma. Lei è indiano di che zona? Innanzitutto? Sono indiano del Kerala, sud occidentale, proprio sulla punta dell'India. Abbiamo aperto il ristorante 22 anni fa a Roma. Immagino non ce ne fossero molti. Ma quasi nessuno, siamo come ristorante il primo di Roma. E devo dire che i primi due anni abbiamo sofferto, anche perché noi non ci conoscevano, non conoscevano la cucina indiana, la chiamavano mangiare strano a quell'epoca. Però poi con perseveranza e persistenza abbiamo fatto strada, e adesso la cucina indiana è conosciuta a Roma e in Italia, e abbiamo costruito nel tempo anche una bella clientela. Ovviamente adesso con la crisi soffrono un po' tutti, anche noi, però siamo soddisfatti. Il suo ristorante, lo dico io, è tra i 100 migliori del World Food and Ethnic Cuisine in Italia, quindi della cucina etnica e mondiale in Italia. Quante persone ha le sue dipendenze? Adesso abbiamo 8 dipendenti. Indiani, immagino. E cucina tutti indiani. E tra cui 3 chef con diverse specializzazioni. La cucina tandoori, che è la nostra versione di cucina alla brace, sempre carne o pesce o verdure speziate, che poi il curry poi comunque dipende da quale zona, quindi abbiamo uno chef per la cucina del sud e uno per la cucina del nord. Sì, perché noi parliamo così di cucina indiana in maniera generalista, in realtà l'India è molto grande, ha una tradizione culinaria anche molto sofisticata, quindi a seconda della provenienza ci sono delle cucine diverse. Anche il curry in Italia in realtà se ne parla così in maniera non appropriata, forse, giusto? È vero, il curry in Italia si intende come quella polvere giallastra che si usa, gli italiani lo usano, chi non conosce la cucina veramente indiana lo usano un po' dappertutto. Immagino le faccia orrore. Però questa cosa. È un grande errore, anche perché ogni pietanza ha la sua combinazione di spezie. Il curry non è una spezia, ma è una combinazione di spezie, no? Il curry, ma nemmeno le direi, la correggerei così, il curry non è una spezia, il curry è il prodotto di qualsiasi cosa cotta in umido con le spezie, però il curry è il prodotto, non la spezia. Ho capito. Non le spezie. E lei tra l'altro ha una storia molto particolare, ho visto che ha studiato medicina a Roma quando è arrivato negli anni 70, no? E poi che cos'è accaduto? Precisamente. Dopo, io diciamo che nel studi della medicina non c'ero molto, comunque ho completato il corso e che poi piano piano avevo un piede già nel commercio, e che poi piano piano poi eravamo anche molto, cioè in un gruppo molto compatto, anche vasto, di amici italiani. Chi, mia moglie è una brava cuoca, e chi veniva a cena da noi ci spingevano ad aprire un ristorante. Perché non aprite un ristorante? Perché non aprite? E alla fine ci hanno convinti. Sua moglie, che anche lei ha studiato medicina. Lei ha studiato medicina, lavora come medico, è anche il medico dell'ambasciata indiana e tra l'altro esercita anche la medicina tradizionale indiana. Parlando di cucina, io parlerei anche della medicina tradizionale indiana, che è Ayurveda, che ha preso piede anche quello in Italia molto adesso. Sì, in effetti quando voi siete arrivati queste cose, come diceva lei, erano un po' curiose per gli italiani. Adesso la cucina indiana va di moda e anche tutte queste pratiche. Lei però ha vinto questo premio anche per la responsabilità sociale, perché nel 95 ha fondato una onlus, Mother and Child, che gestisce a Kerala nell'India meridionale, quindi una casa famiglia per orfani e ragazze madri. Quindi è rimasta una connessione. Io comunque ho una storia. Ero un attivista in India a livello universitario, sono laureato, ho fatto l'università anche in India prima di venire in Italia, e cioè, per mancanza di coerenza che ho notato ho lasciato l'attività politica, sociale, e quindi questo però era sempre rimasto in mente. E che mio intento allora era di cambiare il mondo, quindi cambiare la società. Adesso in Italia, quando sono potuto stare con i miei piedi per terra, ho pensato sempre all'India, ai problemi dell'India, quindi ho aperto un orfanotrofio che poi è diventato anche un centro aperto alle ragazze madri. Le condizioni delle ragazze madri in India è molto drammatica, sono ragazze considerate immorali, ragazze che hanno voluto la propria rovina, quindi viene cacciata dalla famiglia e dalla società, perché è un disonore per la famiglia rimanere incinta al di fuori dei vincoli matrimoniali. Allora, a tutti quelli che hanno nostalgia, come immagino anche lei qualche volta, dell'India, adesso diamo la ricetta del pollo al curry. Pollo al curry. Ingredienti: chicken masala, mix di spezie per il pollo, peperoncino, coriandolo, curcuma, chiodi di garofano, cannella, pepe nero, noce moscata, cumino, semi di finocchio, cardamomo, foglie di curry, fieno greco, zenzero e aglio. Un petto di pollo spellato, pulito e tagliato a piccoli pezzi. 150 g di cipolla, olio, 4 pomodori rossi freschi tagliati a pezzettini, 100 ml di latte di cocco, sale. Dorare la cipolla, aggiungere la miscela del chicken masala e dopo un minuto aggiungere i pomodori. Amalgamare bene come un sugo, aggiungere il pollo. Lasciare il coperchio per i primi 10 minuti, in seguito scoperto, e a fine cottura versare il latte di cocco. Attendere 5 minuti a fuoco basso ed è pronto. Servire con riso basmati. E attenzione, si dice riso e curry e non riso al curry. La puntata termina qui, io ringrazio il nostro ospite Thomas Mailador, grazie, buon pomeriggio, buon appetito. Buon pomeriggio a tutti, grazie. E ringrazio in regia Roberto Scaltritti, mi trovate anche su Twitter @Valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti, buon pomeriggio e ricordate, i gusti a tavola come nella vita cambiano. You've got to give a little, that's the glory of love.